Già, prima di vedere insieme i titoli principali, vi segnalo un'anticipazione che troviamo oggi sulle pagine di scienza della stampa. Il titolo è Internet, l'Eden del conformista. Il vero perché è vero il principio che gli amici dei miei amici sono i miei amici. Insomma, si fa tanto parlare di certe brutte abitudini italiane, di certi retaggi del passato, sui legami, il familismo eccetera, eccetera. E un interessante articolo firmato da Claudio Altafini della Sissa di Trieste, quindi un centro di ricerca insomma, di cui l'Italia si vanta, racconta che i social network spingono all'imitazione e al consenso e che insomma internet, tutt'altro che essere quella piattaforma o essere solamente quella piattaforma di esplorazione e di innovazione, è anche un luogo dove si coltiva il conformismo. Ci ritorniamo tra non molto e ora vediamo quelle che sono le aperture, i titoli principali dei quotidiani oggi in edicola: liberalizzazione e cantieri al sud, è il Sole 24 Ore che riporta naturalmente lo scontro, naturalmente perché poi lo troviamo ovunque, scontro Premier CGIL sulla concertazione mentre Confindustria è pronta al dialogo. Le misure per le liberalizzazioni delle attività di imprese per far ripartire le grandi opere che il governo intende varare entro gennaio sono state al centro di un lungo confronto ieri tra il primo ministro Mario Monti, alcuni ministri, il governatore di Banca Italia Ignazio Visco. Confermata la tabella di marcia per il varo, mentre la settimana prossima il CIPE darà il via a una serie di cantieri al sud. Sulla riforma del mercato del lavoro invece è scontro tra il Premier e la CGIL, mentre Confindustria si dice pronta al dialogo. E il presidente Napolitano, l'abbiamo sentito direttamente dalla sua voce pochi minuti fa, GR24, dicevo, il presidente Napolitano insiste: rivedere gli ammortizzatori sociali. Tra l'altro, dalla prima pagina, un richiamo a un'intervista. Ospite delle pagine del Sole 24 Ore oggi, il ministro delle università e della ricerca Profumo. Vogliamo che le università siano corresponsabilizzate nella selezione dei progetti, meno individualismi e gioco di sistema per competere sul programma Horizon 2020. Il ministro Profumo risponde alle critiche avanzate nella lettera aperta ieri su Sole 24 Ore di Fabio Beltrame e Chiara Carozza. Ecco, questo un'anticipazione. Torneremo tra un po'. Continuiamo con le prime pagine. Per il Corriere è lavoro, tensione, governo CGIL e Napolitano ripensare gli ammortizzatori sociali. E così è descritta nelle prime righe della cronaca, dice: una giornata di tensione tra governo e CGIL sulla riforma del lavoro. L'esecutivo convocherà i sindacati per avviare il confronto con i tavoli bilaterali, una modalità, appunto quella dei tavoli bilaterali, che ha trovato l'opposizione di Susanna Camusso. Poi a Napoli l'intervento del Presidente della Repubblica, che ha lanciato un nuovo invito a rivedere gli ammortizzatori sociali. Ecco, Sergio Romano scrive l'editoriale sulla concertazione, tema che oggi ovviamente ritroviamo, riflessioni sulla concertazione su molte testate. Tra poco leggiamo alcuni passaggi. Vi segnalo invece a centropagine dal Sole la fotografia di una esponente politica britannica. Estetica e credibilità, la protesta di una deputata inglese, dice: sono troppo bella per fare carriera, le donne in politica non vengono prese sul serio se sono carine. Lo denuncia contro il sessismo di un sistema dominato dai maschi, e di Louise Mensch, 40 anni, scrittrice di romanzi, deputata conservatrice eletta alla Camera dei Comuni 20 mesi fa, che aggiunge: sono discriminata perché bella e non riesco a fare carriera. Repubblica, articolo 18. Il governo ci riprova, la norma anti-licenziamento sospesa per tre categorie di neoassunti, e la Fornero annuncia gli incontri bilaterali con i sindacati. La CGIL attacca: no ai colloqui separati. Di spalla un altro tema importante in queste ore, in questi primi giorni dell'anno, ma che naturalmente non nasce con il 2012, che anzi è cresciuto nel corso di tutto l'anno passato con una serie di iniziative che ora di fatto portano l'Ungheria, Budapest, a essere al centro del, diciamo, al centro dell'osservazione europea. Gli indignati di Budapest che si ribellano al regime. È stato dunque una notte di manifestazione in 100.000 sul viale Andrassy tra l'Opera e Piazza Octagon nel cuore di Budapest. Hanno suonato l'inno all'inno lode alla gioia della nonna di Beethoven, l'inno europeo, appunto l'inno alla gioia. Il messaggio è chiaro: non lasciateci soli, la nostra libertà è anche la vostra, scandivano tra l'altro i manifestanti. Lavoro napoletano in campo, questo è il Messaggero, quindi stesso tema, ma anche nel taglio centrale la crisi, virgola, boom di partenze per l'Epifania. Insomma, un dato, come dire, che recepiamo come positivo, visto che anche se c'è un po', come dire, in questa fase la tendenza a coltivare il dato negativo. Il Messaggero ne mette in prima pagina invece Befana, boom di partenze, le vacanze costano meno, posticipate le ferie di Natale e ritornano i ponti, gli italiani al risparmio per la crisi, nel weekend viaggi aumentati del 15%. Ecco, insomma, un focus su come cambino anche le abitudini, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, si tratta sì di risparmiare ma anche magari di spendere diversamente. Fase 2, ecco i piani di Monti per la stampa di Torino, a centro pagina una grande fotografia dedicata alla piazza di Budapest che sfida appunto la nuova Costituzione, ma anche c'è in questo caso sulla stampa, che ha sempre un occhio particolarmente attento alla scienza, al mondo della scienza, il compleanno di Stephen Hawking, il malato che ha sconfitto la medicina. Compie 70 anni il grande scienziato tetraplegico, a 21 anni gli avevano pronosticato 2 anni di vita. Appunto, fisico, matematico, Stephen Hawking è stato, viene salutato dalla comunità scientifica mondiale, di lui dicono ha ottenuto risultati strabilianti che ne hanno fatto il più grande scienziato vivente, e l'hanno fatto apparire anche nella serie dei Simpson, dove ha proferito le immortali parole: Homer, la tua teoria di un universo a forma di ciambella è intrigante, forse te la rubo. Nel 63, pensate, quando aveva 21 anni, a Hawking fu diagnosticato la sclerosi laterale amiotrofica, e appunto il suo orizzonte di vita venne indicato in 2 anni. Oggi compie 70 anni, tanti auguri. Il Riformista, liberalizzazione, poi il welfare, gioco d'anticipo, il 9 gennaio il via per il patto sul lavoro, ma il Premier prevede tempi lunghi, meglio accelerare sull'apertura dei mercati. Anche qui sul Riformista un fondo a firma di Michele Magno sulla concertazione, dice un rito del passato, concertazione addio. Ci torniamo tra un momento. Secolo XIX, quindi in Liguria, il caso in prima pagina è quella di Cistercensi nei guai, chiude a Tiglietto la più antica abbazia italiana. Che succede? La notizia è inquietante: la più antica abbazia cistercense d'Italia, fondata nel 1120, riaperta nel 2004 grazie a un intervento da milioni di euro, è stata chiusa per volontà del commissario del Papa Ratzinger, che lo ha imposto per mettere ordine negli affari e nella vita privata di una delle due famiglie cistercensi d'Italia, la congregazione di San Bernardo, travolta da sospetti, illazioni e da uno scandalo partito da Roma. A centropagina, poi sotto il titolo principale, che è Taxi e farmacie, pronto il blitz, quindi sulla, diciamo, sul grande tema delle liberalizzazioni, c'è anche una fotografia che ci porta in Corea e il titolo dice: le gemelle coreane che offendono l'America. È solo un progetto, e ciò che si vede sulla prima del secolo XIX è un fotomontaggio, ma sta provocando tensioni tra Stati Uniti e Corea del Sud. Seoul intende costruire 2 torri di 50 piani che riproducono le Twin Towers di Manhattan proprio nel momento dell'esplosione, infatti in una architettura alquanto complessa, però insomma è evidente il richiamo nel fotomontaggio al momento dell'esplosione, in cui le parti di fatto centrali della torre si spingono all'esterno. Ancora vediamo le aperture. L'unità spese militari tagliare si può. L'acquisto di 131 caccia costa allo Stato 15 miliardi, ma i contratti vanno rivisti. E per il giornale è uccisi dalle tasse. Ieri ancora un suicidio e fanno 13. Sono gli imprenditori disperati che nessuno difende. Lo Stato, il vero evasore, deve all'azienda 90 miliardi. Questo il giornale diretto da Alessandro Sallusti. A centropagina Monti porta in faccia alla Camusso. Il guaio è il sindacato, invece per Libero licenziamo la Camusso, ormai evidente, CGIL e compagni sono l'unico ostacolo alla riforma del lavoro. E di spalla il tema appunto degli stipendi, dei compensi dei deputati, per Libero è la casta ci prende in giro, loro dicono non guadagniamo tanto. Completamente diversa la scelta questa mattina invece di Avvenire, il quotidiano dei Vescovi apre sul Sahel. Il dramma annunciato, la carestia colpisce anche l'Africa occidentale e lo fa nel silenzio. Nel taglio centrale, un tema di cui abbiamo parlato nel corso della settimana, ci riporta appunto al tema del gioco d'azzardo, la nuova droga, una denuncia a cui si associa il cardinale Bagnasco e la definisce una piaga che corrompe. Ancora abbiamo stipendiucci per il giorno, tagli Camera e Senato frenano all'estero pagato più di noi, insomma questa è il tema, come abbiamo detto un tema molto sensibile sul giorno questa mattina. E poi abbiamo la Padania, PD e Triplice svendono i lavoratori, hanno dato via all'inciucissimo, non si era mai vista una sinistra così, per tenere in vita Monti il governo delle banche mettono a tacere la piazza, intanto scoppiano le bombe, saldi di gennaio, PD e Triplice svendono i lavoratori, l'apertura di oggi della Padania. Eccoci qua, gli stipendi più alti d'Europa loro, il Fatto Quotidiano questa mattina in edicola, noi chiediamo un mutuo e ci ridono in faccia. Dopo mesi di accanite ricerche la Commissione Giovannini scopre l'acqua calda, ma i parlamentari negano l'evidenza e non mollano l'osso. E noi nell'altra parte della prima pagina appunto sul Fatto Quotidiano oggi, che chiediamo un mutuo e ci ridono in faccia, dove finiscono i miliardi europei ingoiati dalle banche? Non certo in aiuto dei risparmiatori. Manifesto, incontri separato. Dai Susanna, come sarebbe che da sola non ti fidi? C'è un Monti in versione Tambour de Femme che appunto nella vignetta chiaramente di Vauro, con i sindacati incontri separati come ai tempi di Sacconi. Un'ultima segnalazione, poi naturalmente ripartiamo tra qualche momento da qui. L'Ungheria in crisi, per il Foglio al Premier Orban mancano troppi soldi per fare il duce magiaro. Torniamo subito. 24 mattino. Concertazione addio, questo è il titolo del commento questa mattina sul Riformista, uno dei commenti che appunto affrontano questo tema. Ovviamente siamo entrati diciamo completamente nel tempo del dibattito sulle nuove forme, sui nuovi accordi e contratti di lavoro, lavoro, tensione, governo, CGIL, vi ricordo un po' per sintesi uno dei titoli ricorrenti, e dunque le opinioni che scrive Michele Magno sul Riformista. Dice: come ha osservato Stefano Folli sul quotidiano sul Sole, Confindustriale, quindi sul Sole ieri mattina, è probabile che con il governo Monti sia iniziata l'era della post-concertazione. Questo è il riferimento al commento appunto che abbiamo letto ieri. Ma gli incontri in calendario della settimana prossima si preannunciano come un lontano parente di quella trattativa per un nuovo patto sociale invocato in particolare dal segretario della CISL. Idee proposte saranno valutate con la dovuta attenzione, ma non contrattate recitando i copioni del passato. Una rivoluzione copernicana nelle relazioni industriali, dettata non solo dalla necessità di decidere in tempi stretti, ma dalla scelta di rompere un meccanismo di veti incrociati che rischia di paralizzare qualunque tentativo di riforma. Stesso tema affrontato da Sergio Romano oggi sul Corriere il titolo esplicito: rito fuori tempo e fuori bilancio, tra parentesi. La concertazione, scrive Romano, è stata per molti anni il totem intoccabile della democrazia consociativa, la formula magica che avrebbe garantito al paese la pace sociale. Per la verità vi sono stati momenti eccezionali durante gli anni di piombo in cui il metodo è servito a sbloccare situazioni pericolose, ma abbiamo fatto troppa esperienza di concertazione nel corso degli anni per non conoscerne gli inconvenienti, e sono essenzialmente il primo è quello diciamo di ordine istituzionale, per cui il sindacato è un'associazione di lavoratori e pensionati, scrive Sergio Romano, non rappresenta il paese, non risponde della sua politica al corpo elettorale, risponde solamente a coloro che hanno deciso di associarsi per meglio difendere i loro interessi. Il secondo inconveniente, prosegue Sergio Romano, è di ordine pratico ed economico. Quasi tutti gli accordi sottoscritti con il metodo della concertazione sono stati raggiunti grazie a compromessi che distribuivano compensazioni, permettevano al sindacato di esibire la prova del proprio potere. Se abbiamo vissuto al di sopra dei nostri mezzi e accumulato un enorme debito pubblico, lo dobbiamo anche alla concertazione. Così Sergio Romano questa mattina in edicola. E a proposito di Corriere, c'è anche un altro richiamo sul tema, come dire, su uno dei temi principali di queste giornate, in cui naturalmente incrociamo elementi che sono quelli del controllo, quello della trasparenza, insomma confini non sempre evidenti e sicuramente sempre discutibili. Punto che affronta questa mattina Piero Ostellino: la libertà di spendere i propri soldi senza controlli di Stato. Uno Stato troppo controllore, dice, soffoca i principi liberali. A chi compra un gioiello, il gioielliere non chiede se è per la moglie o per l'amante. Nel datore di lavoro, per pagargli lo stipendio, pretende che il lavoratore dica come lo spenderà. Nessuno è tenuto a dire perché compra un certo bene o come usa i soldi che guadagna, e nessuno lo chiede in una società aperta. Insomma, le transazioni intersoggettive non sono vincolate da alcuna giustificazione. Ecco, e da qui insomma viene sollevato il punto, la presunzione del sapere ciò che è rilevante, che Piero Ostellino mette appunto in discussione. Dice: da noi è la strada sulla quale si sono avviati, quella del conoscere ogni dettaglio della nostra vita attraverso la spesa, in cui si sono avviati gli ultimi governi Berlusconi, Tremonti e Monti, pretendendo di sapere cosa fa il cittadino dei propri soldi. Ma per saperlo, dice Ostellino, hanno tolto di fatto dalla circolazione la carta moneta, hanno equiparato i risparmiatori ai criminali, hanno violato un principio di civiltà che ha sue radici nella tradizione dello Stato moderno. Attraverso il controllo dell'uso del denaro hanno imposto agli individui una gerarchia di fini. Prima di diventare un paese di socialismo reale, l'Italia annega nel ridicolo. Questo è il punto firmato da Piero Ostellino. Ecco, a proposito di controlli, controllati, controllori, avrete sentito dalle rassegne stampa, da Radio 24, ovviamente ne ha parlato parecchio, a proposito del blitz a Cortina. Blitz a Cortina, controlli appunto nelle ore del Capodanno. Eccolo qua, arriva il fisco tra i VIP di Cortina, peraltro l'Unità con una punta di perfidio fa firmare l'articolo alla collega Fantozzi, che quindi costruisce quasi un quadro post vacanze di Natale. Capodanno sciocca Cortina, il fisco sguinzaglia agenti per negozi e hotel. La storia in estrema sintesi: il blitz dell'Agenzia delle Entrate alla vigilia di Capodanno, 80 agenti sono stati sguinzagliati per i bar, negozi ed hotel. PDL e Lega dicono sistema poliziesco inaccettabile, il sindaco Ampezzano dice è solamente un'operazione mediatica. Si parla naturalmente nella cronaca appunto della collega Fantozzi, ci sono parecchi commenti raccolti in strada, nella passeggiata, immaginiamo, orripilati PDL e Lega, poi ci sono incontri VIP, tra cui per esempio l'ex ministro Maria Stella Gelmini, che dice: l'idea che la ricchezza sia male, fondamento ideologico della sinistra radicale, non credo possa essere condivisa da un esecutivo che fonda la sua maggioranza sul PDL. Questo proprio commentando la presenza dei controllori nella città a Cortina. E già che c'è, dice la Gelmini, avvisa anche qui Italia, vittima di ignobile attacco terroristico, non interpreta la lotta all'evasione come una nuova lotta di classe. Tra i pareri citati non poteva mancare quello di Daniela Santanchè, afficionata della Conca in momentanea trasferta valdostana, quindi altrove. Dice: Monti ha già fatto scappare la gente dai porti, ora la farà anche dalle località sciistiche, basta guardare i ricchi con sospetto. Insomma, questo è un po' il presupposto, ma naturalmente in un clima che come dire, no, può, certo, tutto si può definire meno che un caso isolato, in un clima che è quello ampiamente condiviso di un tentativo di ancora chiarezza. Questa mattina abbiamo usato più volte questo termine, chiarezza anche per le spese, soprattutto per le tasse evidentemente. Ma su questo tema invece scrive sulla prima della Stampa Massimo Gramellini, il titolo del suo editoriale è Equitalia, il cane lupo e i cittadini. Insomma, di solito, scrive, viene identificato con la casta costosa, pletorica e inefficiente dei politici. Questa è la visione dello Stato che gli italiani hanno secondo Gramellini, con il treno sporco e perennemente in ritardo dei pendolari, con il funzionario pubblico che digrigna i denti al di là dello sportello, complicandoci le cose facili e non semplificandoci quelle difficili. D'altro canto, per un funzionario pubblico il cittadino italiano non è il suo datore di lavoro, ma è un postulante, non è il comproprietario dello Stato, ma è un suddito. L'effetto di questa estraneità reciproca, rimasta grosso modo inalterata dai tempi delle invasioni barbariche, si riverbera sulle relazioni cruciali tra chi paga le tasse e chi le riscuote. Il contribuente considera Equitalia un taccheggiatore, Equitalia considera il contribuente un evasore. Equitalia detesta il contribuente perché sa che gli farà o ha già fatto di tutto per fregarla, perciò gli starà addosso con metodi dell'inquisitore, applicando senza un briciolo di buonsenso quelle leggi che le consentono di pignorare la casa e l'auto a chi non possiede nient'altro per lavorare e quindi per pagare le tasse. L'agenzia agirà come se avesse sempre ragione, quando la giustizia le darà torto si rifiuterà di riconoscerlo fino all'ultimo grado di giudizio. Insomma, scrive Gramellini, quando si parla di cartelle esattoriali ogni italiano diventa doppio. Una sua parte A applaude all'irruzione delle fiamme gialle negli alberghi di Cortina durante le festività natalizie a caccia di ricconi esentasse, ma la parte B solidarizza con gli abitanti di Cortina che dal prossimo Capodanno rischiano di perdere la clientela e quindi il lavoro. In genere questa parte B è particolarmente sviluppata quando l'azione invasiva dello Stato lambisce le nostre tasche. Quando invece tocca a quelle degli altri, rifulge al massimo splendore la parte A, una schizofrenia che raggiunge livelli di autentico interesse scientifico in una certa sinistra radicale a cui ha appena dato voce Beppe Grillo, quella che invoca uno stato cane lupo da izzare addosso agli evasori, tranne poi lamentarsi se il cane lupo Equitalia sbrana tutto ciò che fiuta. E ora sentiamo come vanno le cose sulle strade italiane. Ah, abbiamo ancora un secondo, un segnale dalla regia che mi chiede un momento. Allora, proseguiamo. Vi volevo anticipare nell'ultimo blocco, e lo farò, un'altra storia. Questa settimana abbiamo parlato anche molto di cinema, abbiamo parlato di Hoover, il film proprio credo oggi nelle sale, sul profilo del longevo controverso capo per molti anni dell'FBI. Allora, dopo gli aggiornamenti per chi è in viaggio, che nel frattempo sono arrivati, parleremo di un'altra storia di cinema che oggi il Sole 24 Ore riporta in prima pagina. Torniamo subito. Liberalizzazione cantieri al sud, fase 2, ecco i piani di Monti, spese militari, tagliare il lavoro, tensione, governo CGL, ma anche l'Ungheria, al premier Orban mancano i soldi, scrive oggi il Foglio, mancano i soldi, mancano troppi soldi per fare il duce Magiaro, insomma la politica interna e internazionale, ma come vi dicevo un momento fa, dalla prima del Sole 24 Ore vi segnalo anche un altro film, dico un altro perché questa settimana abbiamo parlato a lungo di J. Edgar, quindi l'ultimo Eastwood con DiCaprio, protagonista nelle varie fasi della vita del grande capo dell'FBI, mentre sul Sole 24 Ore è Margaret Thatcher, insomma la hard policy. Un filone naturalmente che è un classico del cinema, continua a produrre delle storie, in questo caso è Sink It, la S sibila tra le labbra appena dischiuse il capo di profilo resta immobile, gli occhi si stringono quasi volessero incoraggiare quell'ordine accompagnando i siluri nel pronunciare il comando affondatelo, rivolto al gabinetto di guerra e diretto a spaziare via l'incrociatore argentino Belgrano. Meryl Streep completa la mutazione in Margaret Thatcher, la somiglianza scandita dall'eccezionale abilità dell'attrice diventa nel passaggio chiave della guerra delle Falklands identificazione totale. Insomma, uno dei momenti più significativi, drammatici della vita politica di Margaret Thatcher, l'attacco argentino alle Falkland, Malvinas per gli argentini e la risposta appunto in quel sinking, in quell'ordine affondarlo. Il racconto della anteprima della Iron Lady, la Lady di Ferro, è firmato da Leonardo Maisano, corrispondente da Londra del Sole 24 Ore, che l'ha visto in anteprima. Un racconto appunto di una figura politica e femminile, ma anche di un momento. Margaret Thatcher arrivò al potere nel mezzo di una crisi economica che aveva ridotto Londra in ginocchio e rappresenta nella storia appunto britannica e non solo uno dei grandi elementi di discontinuità dei suoi tempi. Il film però, scrive Maisano, ferma, come di rario ci è accaduto di vedere, la straordinaria appunto discontinuità che Margaret Thatcher realizzò in Gran Bretagna, ruppe con le logiche consociative, spazzò gli automatismi dell'abitudine, costrinse a pensare con categorie sconosciute, ma nello stesso tempo si diciamo concentra anche su quella che è la figura intima, personale, anche se come dire, suona quasi difficile da cogliere in una figura che per noi ovviamente è totalmente politica e pubblica. Insomma, Lady si vanta di non essere film politico, in effetti l'incongruente operazione di raccontare il più potente protagonista della politica britannica da Churchill in poi senza esprimere un voto ideologico è riuscita molto bene. Tutto comincia dalla vecchiaia, è una Margaret Thatcher che si racconta dal 2003 quando morì l'amato marito Dennis e da quell'anno è affetta da crescenti amnesie, forme di demenza non troppo diverse da quelle che portarono alla morte il suo più grande alleato Ronald Reagan. La pellicola muove da questa condizione dell'ex premier per raccontare in flashback punteggiati dai dialoghi con Dennis, appunto il marito morto per tutti, eccetto che per lei, l'epica di una vita. Un Re Lear con borsetta, è stato detto e scritto. La dimensione shakespeariana lo è perché talvolta è sconcertante rendersi conto di quanto grande possa essere stata una vita, così ha commentato Meryl Streep. Quando la Thatcher vinse la crisi dell'Occidente, l'anteprima del film raccontato oggi sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Ecco, abbiamo citato, e poi torniamo per alcuni minuti al tema di internet che occhieggia qua accanto a me, ma un aspetto che ritengo interessante da condividere è questo richiamo del Messaggero alle partenze per l'Epifania. Allora, posticipate le ferie di Natale, ritornano i ponti, hanno saputo aspettare, scrive Elena Castagni oggi appunto pagina 15 del Messaggero. Hanno lasciato passare Natale e Capodanno, si sono concentrati sul ponte dell'Epifania. Conti alla mano, dépliant di viaggio aperti, hanno visto che anche se di poco i prezzi per la Befana diminuivano. Ecco, questo è un elemento, come dire, interessante di questi tempi ed è, e di nuovo riguarda l'informazione, ma anche la volontà di andarsene a cercare l'informazione in questo ambito, quello del turismo, della vacanza, ma non solamente. Evidentemente, se c'è un fattore che la crisi favorisce in questo specifico e non solo, è quella della necessità di andare a trovare le soluzioni migliori, e così in molti l'hanno fatto, hanno prenotato vacanze in tempo di crisi più corte e nel periodo meno gettonato, ma comunque di soddisfazione. Così per la prima volta sarà il boom del 6 gennaio, lo rileva l'osservatorio casa.it, un incremento del 15% delle richieste per la settimana che segue il Capodanno, nonostante il risparmio effettivo sia solo di 100 euro, una somma che di questi tempi è comunque importante, assolutamente sì, e ritornano appunto i ponti. Breve finestra di nuovo internazionale, vi ho segnalato l'Ungheria e la crisi. Allora, che succede? Lunedì sera davanti all'Opera, dove il partito di governo Fidesz festeggiava la nuova Costituzione, migliaia di persone protestavano, 70.000 secondo il governo, 100.000 secondo gli organizzatori, comunque tanti, cappelli di pelo calati sugli occhi, cartelli enormi in cui dicevano stiamo tornando a prima del 1989, sono stati soppressi i check and balance, insomma i controlli che hanno garantito la democrazia. Le leggi entrate in vigore il 1 gennaio impongono un maggiore controllo sui media e un cambio della legge elettorale che penalizza le minoranze. A fare innervosire i mercati, i grandi finanziatori dell'Ungheria, sono state le misure sul potere giudiziario e ancora di più la fine dell'indipendenza della banca centrale, la banca appunto magiara. Il governo ha assunto il potere di nomina dei collaboratori del governatore e può intervenire sulle decisioni di politica monetaria. E questo è, come dire, un punto, un focus di attenzione sul quale continueremo durante, sono certo, il corso di tutto l'anno. Ancora un paio di minuti e torniamo da dove siamo partiti questa mattina, l'internet Eden del conformista. Allora, Claudio Altafini scrive: se devo invitare due amici a cena, la serata avrà più probabilità di riuscire bene se i due sono tra loro in sintonia o ai ferri corti. Ecco, la teoria dell'equilibrio sociale formulata dallo psicologo Fritz Heider negli anni 50 parte da queste osservazioni elementari per affermare che interne di individui legati da relazioni sociali oppure di amicizia oppure di inimicizia, certe combinazioni ricorreranno più frequentemente di altre perché permettono di evitare situazioni potenzialmente conflittuali o stressanti. La classica situazione tipo scegli me oppure lui. Ecco, applicando questa teoria al web, la SIS conferma che questa si applica perfettamente al mondo dei social network, un mondo che, insomma, contrariamente anche alla nostra percezione diffusa, tende a favorire l'imitazione al consenso. Alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, dunque, scrive Altafini, abbiamo analizzato queste reti, le più diffuse. Il risultato è unanimemente in favore della teoria di Heider. I cicli negativi sono largamente evitati, le comunità sociali hanno un bilanciamento che passa anche il test statistico più stringente. Insomma, essere taggati è un fattore in qualche modo di conformismo sociale, così almeno secondo la scienza, raccontata, lo ricordo oggi, su Tutto Scienze della Stampa, da Claudio Altafini. Bene, noi siamo arrivati alla conclusione di questa parte, allora ci risentiamo a partire dalle 8:20 per parlare di un altro aspetto del web, ma anche dei costi della politica. Ora GR24.